Umberto Eco, Il pendolo del Falcao. Settembre 1999. Fu allora che vidi il pendolo, la sfera mobile all'estremità di un lungo filo fissato alla volta del coro. Descriveva la sua ampia oscillazione con isocrona maestà. Lo sapevo, ma chiunque avrebbe dovuto avvertire nell'incanto di quello placido respiro che il periodo è regolato dal rapporto tra la radice quadrata della lunghezza del filo e quel numero pi che i razionali elementi sublunari, per divina ragione, lega necessariamente alla circunferenza al diametro di tutti i cerchi possibili. Così che il tempo di quel vagare di una sfera dell'uno all'altro polo era affetto di un'arcana cospirazione tra le più intemporali delle misure. La unità del punto di sospensione, la dualità di un'astratta dimensione, la natura ternaria di Pi e il tetragono segreto della radice, la perfezione del cerchio. Ancora sapevo che sulla verticale del punto di sospensione, alla base, un dispositivo magneto, comunicando il suo richiamo al cilindro nascosto nel cuore della sfera, garantiva la costanza del moto, artificio disposto a contrastare la resistenza della materia, ma che non si opponeva alla legge del pendolo, anzi le permetteva di manifestarsi, perché nel vuoto qualsiasi punto materiale pesante, sospeso all'estremità di un filo inestensibile, ha senza peso, che non subisse la resistenza dell'aria e non facesse attrito col suo punto di appoggio, avrebbe oscillato in modo regolare per l'eternità. La sfera di rame emanava pallidi riflessi cangianti, battuta come era dagli ultimi raggi di sole che penetravano dalle vetrate. Se, come un tempo, avesse sfiorato con la sua punta un estratto di sabbia umida disteso sopra il pavimento del coro, avrebbe disegnato a un'oscillazione un solco leggero sul suolo e il solco mutando infinitesimalmente di direzione. All'ogni istante si sarebbe allargato sempre più in forma di breccia, di valo, lasciando indovinare una simmetria ragliata, come lo scheletro di una mandala, la struttura invisibile di un pentacolo, una stella, una mestizia rosa, no, piuttosto una vicenda registrata sulla distesa di un deserto, di tracce lasciate da infinite erratiche carovane. Una storia di lente e millenarie migrazioni, forse così si erano mossi gli Atlantidi del continente di Mu, in ostinato e possessivo vagabondaggio dalla Tasmania alla Groenlandia, dal Capricornio al Cranco, dalla isola del Principe Eduardo alle Svalbard. La punta ripeteva, narrava di nuovo, in un tempo assai contratto, quello che essi avevano fatto dall'una all'altra glaciazione, e forse facevano ancora, ormai corrieri di signori, forse nel percorso tra le Samoa e la Nuova Semiglia, la punta sfiorava nella sua posizione d'equilibrio, agarta il centro del mondo, intuivo che un unico piano univa Avalon e l'Iperborea al deserto australe che ospita l'enigma di Ice Rock.